La dolce natura umana si rivela di te e splende dentro me. Dove sei, vicina mia, punta nel mio cuore. Io i miei giorni spenti con l'attesa di te che freme dentro me. Io non ti donavo il cuore mio, chissà se ceneri di diamanti usai. Stringo i miei lacci lenti e mi incammino ormai sulla tua strada e vai. Bianco fiore, strappo i petali chiusi alla ricerca di te che dormi e sogni me. Io non ti donavo il cuore mio, chissà se ceneri di diamanti usai. Ora nelle mie braccia mi sorridi e sai che la tua vita è